nella galleria del faro l'odore dell'acetilene attossacava. Capitan Caci, il pilota, levò la mano dal cannocchiale, si fregò l'occhio con un dito e non disse una parola. «E allora?» domandò Michele Carrubba, il farista. «Secondo me quelli se la vedranno l'Aida», sentenziò Capitan Caci. «Che fate? Non è meglio che uscite?» «Io? E chi? Non siete voi il pilota?» «Piloto? Certamente, ma fissa no. Non hanno messo il segnale». «Non c'è segnale, d'accordo. Ma questo forse significa...» «Significa una cosa sola», tagliò Capitan Caci. «Che non vogliono il pilota. Se si sentono tanto esperti, questi russi, da potercela fare da sole, se la fottono loro. Ma quelli magari non capiscono una minchia, che ne sanno dei fondali di qua. Credono di potersene stare tranquilli e tutti insieme si ritrovano con l'acqua al collo. E perciò, secondo te, io dovrei chiamare i miei uomini, metterli in barca con questo tempo, fargli gettare sangue a vogare, acchianare sopra il vapore di queste russe dal cazzo e portarle sane e salve in porto? E se quando sono al sicuro acciaccati mi dicono tanti saluti e sono? Beh, se sono gente da mare non da fedare. Se quelli prima non mettono il segnale di chiamata pilota, io non mi catameno. L'anno passato con una nave inglese, me la sono pigliata nel culo. C'era tempo tinto come ora. Io per buon cuore ci sono andato incontro, me le sono portate in porto e in conclusione non mi hanno voluto dare una lira perché dice che avevo fatto tutto di testa mia e gli uomini ho dovuto pagarli io. Il segnale contratto è, mi chiamano, ci vado, gli pagano. E allora? Tornò a domandare Michele Carrubba. E allora niente, lo facevo per spiegarti. Tu il faro lo tieni acceso, io sto qui agli ordini. La barca e gli uomini sono pronti a riva, la coscienza l'abbiamo a posto. Se quelli poi vanno a rompersi le corna per sparagnare due soldi, che è colpa nostra? Bagnata dal sangue di un morto, il 16 dicembre 1831, un'isola, spuntata come d'incanto il 15 luglio di quel corrente anno, decise che si era stufata e se ne risprofondò da botto, lasciando agli uomini che aveva sopra appena il tempo di rimbarcarsi. Passati 15 anni, l'isola parve ripensarci. Una bella mattina fece emergere il famoso Monticciolo. Lo tenne a 1 o 2 metri sopra il mare, com'era a tagliarsi attorno, e poi, visto che non era cosa, se ne tornò di sotto, fermandosi a 3 metri dal pelo dell'acqua e trasformandosi in una secca pericolosa. Come secca, l'ex isola venne sempre chiamata allo stesso modo, Secca de Marullo, dal nome di uno sfortunato capitano che proprio su quel basso fondale ci aveva remesso barca e pelle. E sulla Secca de Marullo, dopo aver scarrocciato per oltre un'ora in un subisso di vento e di mare, la nave russa Ivan Tomorov, come lucidamente aveva previsto Capitan Caci, andò a rompersi la corna. Avevi ragione tu, sei un santo tu, un santo! Inginocchiato ai piedi del letto, dove stava disteso Stefanuzzo tutto piagato e che intanto era arrivata alla 100ª Ave Maria di ringraziamento, Nenè Barbabianca spalmava olio e lacrime sulle ferite del fratello. Sotto la santina della Madonna bruciava una candela gigante. In cucina, Elke aveva messo a bollire 2 pignate d'acqua per lavare il sangue che era andato a finire perfino sopra i muri della camera sua e di Stefano. Marietta stracciava camicie vecchie per farne fasciature. Donna Matilde aveva mandato la criata Mariannina a cercare il dottor Artidoro Carmina e ora stava alla finestra aspettando il ritorno dei due. Tano, a tomba, era corso in campagna a trovare la pelle di serpente che attagna il sangue e sana le ferite. Solo il muto non si vedeva per casa. Chissà dove era andato a rendanarsi. Padre Mbornone aveva cominciato a fare voce che gli preparassero il suo scappacavallo, che ancora la parte poppiera della Tomorov non si era inclinata sul fianco, vomitando casse, corde, pezzi di legno e ferri, piccole pupi che comicamente si agitavano ed erano uomini. Affascinato, Le Mounier aveva visto dal porto di Vigata 1, 5, 10 farfalle bianche volare verso la nave, miracolosamente tenendosi in bilico sopra i cavalloni.